Isia Podcasting. Benvenuti alla prima puntata del podcast Isia, l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze. Tramite queste trasmissioni ci proponiamo di darvi segnalazioni utili sul mondo del design, affrontando temi di una qualche rilevanza con l'aiuto di personaggi specialisti nel settore. Ogni puntata è formata da 4 rubriche che trattano il tema centrale con modalità diverse. Questa puntata tratta il tema della cultura del progetto. Speriamo che le informazioni che vi procuriamo vi siano utili. In ogni caso, sul nostro sito www.isiadesign.fi.it troverete dei contenuti video aggiuntivi da scaricare. Per qualunque altra comunicazione o per suggerirci eventuali temi per le puntate successive, scrivete all'email segreteria@isiadesign.fi.it. Buon ascolto. Isialoghi. Il primo personaggio a intervenire nel nostro podcast è Giuseppe Lotti, un giovane designer fiorentino col quale noi studenti dell'ISIA ci siamo intrattenuti in un dialogo sulla cultura del progetto. Se confronti il design italiano con il design di altri paesi, una delle cose che ti viene fuori in maniera chiara e anche uno degli elementi di forza è la grande teoria che fino ad ora è stata dentro il design italiano. Se tu vai a vedere il numero di pubblicazioni, di libri che sono stati fatti al mondo sul tema del design, indubbiamente in Italia, io sono convinto, ne abbiamo più del 50% complessivo, e questo è il grande elemento di forza del design italiano. E questo porta al fatto che il design italiano è un design che è di grande sperimentazione, ha questa valenza culturale molto forte, ha questa capacità di scartare via rispetto ad altri, dal punto di vista proprio della forma, dal punto di vista della ricerca sul concetto, no? Un oggetto non è solo risposta alla funzione, ma è un qualcosa che va al di là della semplice funzione dell'oggetto, che probabilmente parte da tutte queste pagine che sono state scritte sul design Italia. Il problema è che io penso che questa capacità di fare cultura del progetto, questa capacità di avere queste basi teoriche forti, che era la peculiarità del design italiano, io ho l'impressione che oggi sia molto meno. Io ho lavorato e sto lavorando con tanti progettisti giovani, perché mi piace riuscire a coinvolgere, insomma, quelle che sono le ultime generazioni. Io quello che noto è un progetto spesso molto veloce, che non ha queste basi teoriche e culturali che aveva fino ad ora. Certo. E quindi poi è una cosa che senti nel momento in cui vedi il prodotto, nel momento in cui vedi il progetto. C'è questa velocità nel disegno, probabilmente è anche legata al fatto che oggi si scrive sul design, ma si scrive con una profondità dal punto di vista teorico, dal punto di vista concettuale, che è di gran lunga inferiore rispetto a qualche anno. Mancano le persone. Questo probabilmente si risente, ma si pubblica tanto oggi, ma poi idee veramente forti. Ma forse che perché c'è anche una tendenza a questo rendere internazionale il progetto, che fa anche perdere un po' di vista quelle che sono le radici culturali e poi anche, insomma, questa base teorica. Ma c'è una perdita di colpi. No, ma anche molti anni fa in Toscana il progetto, il design era molto forte rispetto anche ad altre regioni italiane. Si è perso, cioè ora se dici di fare design comunque qui in Toscana ti guardano un po', o di sì, lavorare. Sì, questo aspetto però poi in realtà è un problema proprio a livello italiano. Cioè, se dovessi dire fra tutti i giovani che ho conosciuto, c'è qualcuno effettivamente che mi convince, perché si capisce che dietro ogni progetto c'è un qualcosa, no? Però tanti altri un pochino meno. Non è che forse anche la formazione del design in Italia dà, se vogliamo, un impolverato un po' superficiale, nel senso che a volte si tende a fare tanto, a fare troppo, a fare verso tantissimi cioè in tante direzioni diverse, però poi magari manca la base, manca quel retroterra che poi è fondamentale per il progetto stesso, perché un progetto che non tiene conto di quello che gli sta intorno è un progetto mutilo. Forse le scuole di design in questo punto di vista o si spingono verso caratterizzazioni troppo ludiche o modaiole, fra virgolette, o magari tengono poco conto di quello che è il contesto del progetto, cioè si progetta per l'invenzione geniale, si progetta quel qualcosa di particolare. Il rapporto con il territorio, la perdita del rapporto con il territorio, con le imprese, con le peculiarità. Sì, poi rientra tutto in questo grande calderone. La nostra grande forza è che quando tu facevi un prodotto, dietro al prodotto c'è un'idea di mondo. Ora si fa così, non lo dicevi te, no? No, prima magari lo fai e poi ci lo provi dopo averlo fatto, veloce del prodotto. Indubbiamente questa dimensione, cioè lavorare proprio sulla valenza sociale del design, sulla capacità del design di influire comunque la definizione della realtà, la definizione anche del mondo poi che ci circonda, è qualcosa che tu hai perso e se lo recuperi un po' un casino, abbastanza. Tu lo trovi più all'estero forse che in Italia. In Italia c'è questa sorta di patina. È anche vero che poi se confrontiamo il lavoro delle nostre scuole, il lavoro dei nostri studenti con scuole per esempio all'estero, un qualche cosina in più poi lo troviamo, no? Lo troviamo e forse lo troviamo sempre questa capacità di dire ok, questa è la strada che tutti percorrono, noi poi ci inventiamo una storia che è una storia diversa. Questa è forse la nostra forza, no? O almeno fino ad ora è stata la nostra forza. Speriamo. E continuiamo avanti da questo punto di vista. Grazie infinite. Design for Dummies. In questa sezione del nostro video podcast vi insegniamo a realizzare degli sfondi per i vostri rendering. In questo caso creeremo insieme una galassia su Photoshop CS2. Nel caso in cui questo tutorial vi interessi, scaricate anche il nostro video podcast. Andiamo adesso a vedere passo per passo come agire su Photoshop CS2. Create un nuovo file di progetto con le misure desiderate. Dopo aver selezionato lo strumento secchiello, riempi l'intera superficie di lavoro con il colore nero. Dal menu Layer, seleziona New per creare un nuovo livello di lavoro. Nomina il nuovo livello per avere modo di poterlo riconoscere in seguito. Per creare il campo stellare, sarà necessario a questo punto andare a modificare il colore selezionato, scegliendo una tonalità che sia sufficientemente luminosa, come un grigio molto chiaro. A questo punto, dal menu Filter, seleziona la voce Render e scegli Cloud. Dalle opzioni della finestra Layers, seleziona la modalità Dissolve e diminuisci il livello dell'opacità fino a raggiungere l'effetto desiderato. Crea un nuovo livello di lavoro per l'effetto nebulosa. Seleziona un nuovo colore a tua scelta per la nebulosa. Dal menu Filter, seleziona Render e scegli Cloud. Dalle opzioni della finestra Layers, seleziona Linear Dodge e modifica l'opacità fino a raggiungere l'effetto desiderato. Crea un nuovo livello di lavoro per la seconda nebulosa. Seleziona il colore che desideri per la seconda nebulosa. Dal menu Filter, seleziona Render e scegli Clouds. Dalle opzioni della finestra Layer, seleziona Linear Dodge e modifica l'opacità fino a raggiungere l'effetto che desideri. Crea un nuovo livello di lavoro per il pianeta in primo piano. Con lo strumento Cerchio, disegna una circonferenza sul piano di lavoro. Con lo strumento Secchiello, riempi questa forma con il colore nero. Crea un nuovo livello di lavoro per l'ombra del pianeta. Riempi la circonferenza con il colore che preferisci. Crea un nuovo livello di lavoro per la seconda ombra del pianeta. Adesso riempi la circonferenza con il colore bianco. Dalla finestra Layers trascina in alto il livello della seconda ombra del pianeta, fino a portarlo nella seconda posizione. Deseleziona la circonferenza. Dalla finestra Layers seleziona il livello della seconda ombra del pianeta. Dal menu Filter seleziona Blur e scegli Gaussian Blur. Agisci sulle regolazioni per raggiungere l'effetto che desideri. Tra i livelli seleziona quello relativo alla prima ombra ed esegui le stesse operazioni relative alla seconda ombra. A questo punto gli elementi basilari della tua galassia sono pronti e puoi aggiungervi elementi come pianeti aggiuntivi o stelle più o meno vicine utilizzando lo strumento pennello. Adesso che avete imparato a realizzare dei bellissimi sfondi con Photoshop per i vostri rendering, potremmo consigliarvi qualche concorso internazionale a cui potreste partecipare. Il primo riguarda il Brown Prize ed è un International Competition to Promote Young Designers che tende appunto a promuovere il lavoro dei giovani designers di tutto il mondo per raccogliere e riconoscere il lavoro delle scuole di disegno e per sviluppare un riconoscimento più grande dei fattori e dei criteri che fanno un buon design del prodotto. Il sito da consultare è www.brownprize.com, scritto www.brownprize.com. Se vi interessa lavorare con designers e compagnie del calibro di Nike, Motorola, Herman Miller, Black & Decker e Hewlett Packard, consultate il sito www.inventables.com, scritto www.inventables.com. Un'ulteriore competizione studentesca di design promossa dalla OLED, che si occupa appunto di progettare il futuro dell'illuminazione, è disponibile per consultazione sul sito www.oleddesigncontest.com, scritto www.oleddesigncontest.com. Thank you. Isiota Ludens. Isiota Ludens, cos'è questa rubrica? In questa rubrica noi ci proponiamo di tenervi aggiornati sulle principali mostre in circolazione in questo momento. Per la puntata numero 0 di questo podcast, del nostro podcast, abbiamo avuto l'onore e la fortuna di incontrare l'architetto Gabriele Morolli, personaggio alquanto affascinante e principale curatore della mostra Leon Battista Alberti, l'uomo del Rinascimento, in corso a Firenze. Ascoltiamo l'intervista. Come si risolve l'ambiguità del personaggio albertiano inteso come letterato e progettista? Il termine ambiguità è un termine cattivo per quanto riguarda il povero Leon Battista Alberti, nel senso che nella terminologia ambiguo c'è sempre un margine di giudizio negativo, mentre invece questa ambiguità, mettiamola fra apici, che in effetti esiste nel personaggio Alberti, è certissimamente un valore aggiunto per almeno una buona e certa ragione, perché gli stessi contemporanei di Leon Battista Alberti percepivano questa, invece che apertura, diciamo, invece che ambiguità, diciamo, apertura a 360 gradi della creatività di Leon Battista. Infatti avevano coniato per lui una sorta di definizione che una volta di più ci può trarre in inganno. Cristoforo Landino, suo estimatore più giovane, suo discepolo per certi versi, subito dopo la morte del maestro, parla di lui paragonandolo ad un camaleonta, cioè dire un camaleonte. Un animale, come specifica sempre Cristoforo Landino sviluppando questo concetto, che prende il colore di ogni situazione nella quale si trovi. Per Cristoforo Landino questo era un complimento, nel senso che Alberti era stato scrittore, poeta, musico, ginnasta, architetto, pittore, scultore, moralista, memorialista, eccetera, eccetera, eccetera. E in ogni situazione, in ogni contesto creativo, estetico, letterario, eccetera, eccetera, aveva saputo appunto adattarsi, prendere il colore, cioè le maniere e i modi di quello specifico modo di esprimersi, di quella specifica branca della creatività, riuscendo a dire qualcosa. Come si colloca la figura dell'Alberti nel tema della cultura del progetto? Su questo terreno effettivamente anche i recenti studi che si sono concentrati nell'anno 2004 del sesto centenario della nascita e dintorni, la mostra fiorentina su Alberti architetto è data al 2006, sono indubbiamente importanti, in particolare sotto il profilo appunto del rapporto fra creatività, progetto e realizzazione pratica. Vi è una sorta di perfido preconcetto sul rapporto che Alberti avrebbe avuto nei confronti del disegno e del cantiere. Il perfido preconcetto suona: Alberti è un grande intellettuale, un grande letterato, percepisce l'importanza della esteticità, dà indicazioni generali, ma quando si tratta di tradurle in operazioni concrete, quali appunto un disegno, un progetto o addirittura la verifica e l'attuazione del progetto in un cantiere, Alberti si ritrae, non è interessato alla parte operativa della creatività appunto artistica e lascia ad altri il lavoro sporco, per così dire. Cosa leggiamo appunto nei nostri manuali di storia dell'arte? Che in effetti, mentre Brunelleschi, l'eroe dell'operatività, l'eroe del cantiere, l'eroe della interazione diretta dell'artista con l'opera, è colui che incarna gli ideali di un umanesimo attivo, Leon Battista Alberti, a differenza di Brunelleschi, sarebbe colui che crea un grande impalcato teorico, ma una volta di più è disinteressato alla parte pratica, è in fondo un intellettuale che si sta richiudendo nella cosiddetta turris eburnea e quindi distacco dall'operatività, distacco dalla realtà. Ma questo non significava disinteresse di Alberti nei confronti del cantiere, ma significava già una, a mio avviso, moderna, questa volta in senso attuale, e delega nei confronti di altre operatività rispetto a quella del progettista ideatore. Una cosa che mai si era verificata fino ad allora, tutto il Medioevo, il primo Rinascimento, aveva visto la figura del capomaestro, del progettista e dell'esecutore della cattedrale, del palazzo e così via, unificati in una sola persona. Per chi volesse scaricarsi l'intervista in versione integrale, basterà visitare il nostro sito www.easyadesign.fi.it. Per quanto riguarda le altre mostre in circolazione, ci sentiamo di consigliarvi la mostra in atto fino al 30 giugno a Firenze, a Palazzo Strozzi, Ciò che resta è d'arte, una reinterpretazione creativa e dinamica della spazzatura. Per informazioni consultate il sito www.palazzostrozzi.it. Per gli amati del design finlandese, invece, perché non visitare la mostra Design finlandese, la collezione Mangano, presso il Museo regionale di Messina? La mostra terminerà il 30 giugno. Per informazioni contattate il sito www.designfinlandese.it. Navigando dal mare alla laguna di Venezia, come non andare a Palazzo Grassi per la mostra d'arte contemporanea Where Are We Going, tratta dalla collezione privata di François Pinault. Tra gli espositori, Urs Fischer, Jeff Koons, Gerhard Richter. Terminerà il 1 ottobre. Per informazioni, www.palazzograssi.it. Perché non dare anche un'occhiata all'estero, magari Londra, dove dal 21 al 24 settembre migliaia di designer affermati e non lanceranno i propri prodotti nel mondo del consumo. La fiera, intitolata 100% Design, si svolgerà presso l'Earl Court 2 di Londra. Vorremmo anche consigliarvi un libro di Enzo Mari del 2001, edito da Bollati Boringhieri, Passione e Progetto, un libro che riteniamo molto, molto interessante per chiunque si voglia avvicinare alla professione del designer. Prova a immaginare di avere già 50 anni. Ti va abbastanza bene. Non sei diventato Michelangelo, ma la gente paga ampiamente il tuo lavoro, senza metterti in condizione di fare quello che non ti piace. Descrivi la stanza dove lavori. Continuando, in molti incontri, ho fatto questa domanda e pochi giovani hanno risposto. Una stanza con tutte le pareti occupate, totalmente, da librerie, con al centro un piccolo tavolo, con 4 o 5 dizionari. Oppure un altro, uno stanzone con fari di ogni tipo, diverse macchine fotografiche e tutti gli obiettivi, anche i più costosi. Il primo giovane è diventato uno studioso della critica letteraria. Il secondo, un bravissimo fotografo. Non è paradossale prevedere un futuro di mediocrità a giovani non affetti da 3 fissazioni. La curiosità, l'incertezza, l'onnipotenza. Se la qualità di un progetto dipende dal suo attraversare diversi saperi, la curiosità e l'incertezza si può solo materializzare con la conoscenza profonda di un solo strumento, l'onnipotenza. Linee di fuga. Linee di fuga è la sezione di questo podcast che mette a confronto le opinioni di un addetto ai lavori, quale l'architetto Giuseppe Furlanis, con quella della gente incontrata casualmente per strada. Dovendo definire un oggetto che possa simboleggiare la cultura del design, tenderei a riferirmi a un oggetto del passato, in modo particolare lo individuerei nella sedia di Stam, realizzata nel periodo dell'esperienza del Bauhaus, perché questo oggetto a pensilina in tubolaro d'acciaio tende a unire in sé gli aspetti che determinano l'innovazione di prodotto, un'innovazione formale che deriva da una ricerca e un'innovazione di tipo tecnologico, quella quindi del tubolare curvato, ma dove Stam cerca di definire anche una nuova filosofia del progetto, individuata nella miglior rispondenza all'aspetto della funzione, ma in una considerazione anche di tipo concettuale, che porta nella essenzialità della forma, nella continuità della forma e nella rispondenza tra forma e funzione i contenuti anche di una filosofia specifica, che è poi è stata la filosofia che ha dato corpo all'esperienza del movimento moderno. Qual è il pezzo di design che ha influenzato di più i nostri tempi? È la pittiera Monca Bialetti, nelle case di tutte, è utile, disegno molto, molto semplice, molto funzionale, ed è, ha cambiato la vita veramente un po' a tutte le persone. L'oggetto ritengo sia molto innovativo nel campo del design è quello disegnato Clipstar per l'Alessi, lo Spema Grumi, fatto a ragno, perché è un oggetto comunque particolare, rappresenta un, quasi si può dire un animale, un ragno e tutto, solamente viene utilizzato per spremere, e l'utilizzo anzi riesce molto bene perché poi il succo riesce a centrare il bicchiere, quindi diciamo come utilizzo è ottimale e poi dal punto di vista di design è molto particolare. Per me un oggetto particolarmente importante è il mio strumento, che è un violoncello fatto da un liutaio di Padova che si chiama Lanaro Umberto. Il mio strumento ha precisamente 30 anni, è del 1976, è di letteria, è un colore quasi arancio, e ci sono molto affezionata perché appunto è il mio strumento e ce l'ho sempre accanto a me.